Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori. Ciao a tutti e tutte, siete sulle frequenze di Radio Città Fujiko 103.1 FM e qui Alessia che vi parla e vi dà il benvenuto a Walloon, la vostra mezz'ora di storia del sabato pomeriggio. Nella puntata di oggi parliamo di obiezione di coscienza al servizio militare e lo faremo con il nostro ospite Marco Labbate, che ha da poco pubblicato una ricerca molto originale sul lunghissimo iter che ha portato all'approvazione della legge nel 1972. Prima di entrare però nel vivo della puntata vi ricordo innanzitutto che la potete riascoltare in podcast dal nostro sito radiovallun2o.info a partire da lunedì e poi andiamo in musica per qualche minuto con Paco Ibáñez e la sua versione di un brano antimilitarista di Georges Brassens, cioè La mala reputazione. En mi pueblo sin pretensión tengo mala reputación, haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe, no a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos, todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Cuando la fiesta nacional, yo me quedo en la cama igual que la música militar, nunca me supo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que el de no seguir al abanderado. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe, no a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me muestran con el dedo, salvo los mancos, quiero y no puedo. Si en la calle corre un ladrón y a la zaga va un ricachón, zancadilla pongo al señor y aplastado el perseguidor. Eso sí, que será una lata, siempre tengo yo que meter la pata. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe, no a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos tras de mí a correr, salvo los cojos, es de creer. No hace falta saber latín, yo ya sé cuál será mi fin. En el pueblo se empieza a oír muerte, muerte al villano vil. Yo no pienso pues armar ningún lío, con que no va Roma el camino mío. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe, no a la gente no gusta que uno tenga su propria fe. Todos, todos me miran mal. La legge numero 772 del 15 dicembre del 1972 riconosceva per la prima volta l'obiezione di coscienza al servizio militare e vedremo poi con il nostro ospite la particolare natura giuridica dell'obiezione nel 1972. Questo risultato ad ogni modo è frutto di 25 anni di lotte di singole associazioni, movimenti intellettuali di diverse culture politiche che come Antigone hanno detto di no soprattutto alla concezione della politica e della guerra di Creonte. Negli ultimi anni questo termine ha subito un profondo cambiamento semantico. Oggi di obiezione di coscienza si parla soprattutto in campo sanitario e in merito all'interruzione di gravidanza e il profilo dell'obiettore ha vissuto un vero e proprio stravolgimento andando a connotare in sostanza chi si appella all'obiezione però per contrapporsi ai diritti individuali. Ma per il significato che ha avuto l'obiezione di coscienza al servizio militare c'è sicuramente una maggiore affinità con la disobbedienza civile che con il moralismo. La canzone della Marcia per la Pace di Amodei e Fortini, del noto gruppo Cantacronache degli anni 60, recitava «E se la patria chiama, lasciatela chiamare, oltre le Alpi e il mare un'altra patria c'è, e se la patria chiede di offrirgli la tua vita, rispondi che la vita per ora serve a te». Era un pezzo composto e improvvisato alla prima Marcia per la Pace del 1961 e noi ve lo facciamo ascoltare interpretato dalla mitica Maria Monti. E se Berlino chiama, ditele che si impicchi. prepare per i ricchi, prepare per i ricchi. E se Berlino chiama, ditele che si impicchi. Prepare per i ricchi, no, non ci garba più, no, non ci garba più. E se la NATO chiama, ditele che ripassi. Lo sanno pure i sassi, lo sanno pure i sassi. E se la NATO chiama, ditele che ripassi. Lo sanno pure i sassi, non ci si crede più, non ci si crede più. Se la ragazza chiama, non fatela aspettare. Servizio militare, servizio militare. Se la ragazza chiama, non fatela aspettare. Servizio militare, solo con lei farò, solo con lei farò. E se la patria chiama, lasciatela chiamare. Oltre le Alpi e il mare, oltre le Alpi e il mare. E se la patria chiama, lasciatela chiamare. Oltre le Alpi e il mare, un'altra patria c'è, un'altra patria c'è. E se la patria chiede di offrirgli la tua vita, rispondi che la vita, rispondi che la vita. E se la patria chiede di offrirgli la tua vita, c'è da dire che la storia dell'obiezione di coscienza al servizio militare ha raccolto davvero poco interesse da parte degli studiosi. Quando pensiamo alle espressioni culturali del pacifismo nel Novecento, ci vengono subito in mente le manifestazioni pacifiste legate alla contestazione del 68, soprattutto al Vietnam, ma la storia del pacifismo e dell'antimilitarismo, perlomeno nell'Italia repubblicana, non inizia nel 68 ma già all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, tra le rovine di 20 anni di dittatura fascista e nel contesto della guerra fredda, ed è una storia di lotte per i diritti civili. Tra gli studiosi che hanno iniziato a colmare le lacune sul pacifismo, oltre ai bellissimi lavori di Amoreno Martellini e Elena Iorio, c'è il nostro ospite, lo storico Marco Labbate, che ha da poco pubblicato per Pacini Editore la sua ricerca dal titolo Un'altra patria, l'obiezione di coscienza nell'Italia repubblicana. Eccoci qua, benvenuto a Marco, benvenuto a Vallun e Radio Città Fujiko. Ciao Marco. Ciao Radio Città Fujiko e ciao Vallun. Ciao, grazie di essere qua con noi. Noi appunto ti abbiamo invitato perché abbiamo appena presentato il tuo libro, che ripetiamo si intitola Un'altra patria, l'obiezione di coscienza nell'Italia repubblicana, che è proprio dedicata a diciamo il tortuoso percorso dell'affermazione dell'obiezione di coscienza alla leva militare in Italia. Noi, a differenza del senso comune, diciamo più recente, grazie al tuo libro scopriamo insomma che i primi obiettori hanno dei profili un po' molto diversi e eterogenei, ma provengono, diciamo, prevalentemente da ambienti religiosi. Ma poi scopriamo anche una cosa interessante, a mio avviso, cioè che l'Italia è una repubblica fondata sull'esercito, cioè mi spiego. È interessante quello che tu fin dall'inizio diciamo dalle prime pagine ricostruissi in merito proprio al dibattito della politica nell'immediato dopoguerra, nel momento in cui stava nascendo la Repubblica. Diciamo che le posizioni prevalenti nella sfera politica nazionale sono quelle generalmente a favore di una leva militare obbligatoria e a parte le motivazioni, che sono molto sfaccettate tra loro, mi ha incuriosito molto in particolare la posizione del Partito Comunista, che da un lato chiedeva dei cittadini in armi per scongiurare il ritorno al fascismo e dall'altro riaffermava, diciamo, anche degli ideali patriottici risorgimentali. Ho intuito bene, Marco? Allora, intanto grazie di questo invito, sono molto contento grazie di trovarmi qui con voi. Allora, dobbiamo pensare innanzitutto tenere presente il contesto, ovvero un paese che veniva da 20 anni di fascismo e in cui lo stesso termine, obiettore di coscienza, obiezione di coscienza, era, come lo definisce Guido Ceronetti, il poeta, che pochi sanno, ma fu un attivista importante nella storia dell'obiezione di coscienza nei primi anni di vita, poi si distaccò da questa prima esperienza, era una formula esotica. L'avevano usata fino a quel momento soltanto, fino diciamo alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Io l'ho ritrovata soltanto in una lettera di Don Primo Mazzolari, che poi aveva avuto grossissima diffusione. Era presente, era testata nei vocabolari, ma era poco in uso. E gli stessi obiettori ve ne erano stati già durante la Prima Guerra Mondiale, non l'avevano mai usata. Quindi direi che la prima grande sorpresa, secondo me, è che di obiezione di coscienza se ne parli nell'Assemblea Costituente. Cioè ci sia un deputato socialista, Ernesto Crali, anzi del Partito Socialista dei Lavoratori Italiani, quello che si era staccato dal Partito Socialista di Unità Proletaria con la scissione di Palazzo Barberini, che parla di obiezione di coscienza, che presenta un emendamento sostenuto tra l'altro da un altro compagno di partito, più celebre, Umberto Calosso, quello che inventò la formula Repubblichini per definire i militanti di Salò. Ecco che allora l'obiezione di coscienza appare in Costituente e, come hai detto tu, però tutto sommato non trova grande accoglienza, proprio perché vi erano delle culture politiche che non avevano certamente l'obiezione di coscienza tra le proprie prerogative, non quella cattolica, che anzi aveva il suo una forte spinta verso, all'epoca, verso una visione gerarchica, e che in qualche modo si proponeva anche di andare a coprire un vuoto nella parte conservatrice, ma nemmeno, come hai ricordato giustamente tu, quella comunista, perché veniva dall'esperienza resistenziale e dal mito dell'Armata Rossa, perché vedeva l'esercito come luogo di propaganda e perché in qualche modo comunque il Partito Nuovo di Togliatti aveva l'obiettivo di rivolgersi anche ai ceti moderati, e non era certo l'obiezione di coscienza un'istanza rassicurante. E allora l'obiezione di coscienza rimane una questione di movimenti libertari che avevano sì un afflato religioso, ma assolutamente anticonformista. A sostenere l'obiezione di coscienza sono Aldo Capitini, che porta avanti un movimento di rinnovamento religioso, e un ex sacerdote modernista come Giovanni Pioli, oppure una parte del mondo anarchico, tuttavia, che viene fortemente contrastata da un'altra parte. Non è unanime nel mondo anarchico l'adesione all'obiezione di coscienza, nonostante una forte tradizione antimilitarista. Ecco, questo è davvero un aspetto molto, molto interessante che, se avessimo tempo, mi piacerebbe approfondire, però la dimensione anche del contesto della Guerra Fredda ovviamente è una delle, diciamo, aspetti principali che poi forza, diciamo, l'esclusione dell'obiezione di coscienza dal dibattito politico. Assolutamente sì, la Guerra Fredda rappresenta una cesura anche in un iniziale dibattito. E al tempo stesso teniamo presente via un altro aspetto, cioè soprattutto nei ceti conservatori, quindi nel governo, all'interno della Democrazia Cristiana, ma proprio nel governo, quella di riabilitare in qualche modo l'esercito che veniva dall'ignominia dell'8 settembre. E quindi ecco che l'obiezione di coscienza appariva come una contestazione all'esercito che ritornava utile nel collocare l'Italia all'interno del blocco occidentale nella guerra fredda che riprende vigore, che prende fortemente vigore con soprattutto dopo la guerra di Corea, con lo scoppio della guerra di Corea, ma al tempo stesso riaccreditare una società di ordine che aveva nell'esercito un punto di riferimento, un esercito che era stato in qualche modo aveva perso gran parte della propria autorevolezza per il legame con l'ideologia fascista e poi per l'abbandono dei soldati da parte dello Stato Maggiore in seguito all'8 settembre. Certo, senti, allora, grazie al tuo libro, infatti ci rendiamo conto, io vi rinvito ascoltatori e ascoltatrici di Vallun a recuperare, a comprare, a leggere il libro di Marco Labate, che è davvero un lavoro molto ricco, ricco di fonti, e veramente ci sono una complessità anche di prospettive su questo tema che tieni insieme in modo magistrale, e ne approfitto per farti complimenti, anche perché, come dicevo prima nella prima parte della puntata, diciamo, questo aspetto è davvero un po' uno studio piuttosto isolato e poco approfondito, diciamo, dalla ricerca storica contemporanea. In questo lungo percorso che fa Marco, dall'immediato dopoguerra fino poi all'approvazione della legge sull'obiezione di coscienza nel 1972, c'è un momento di discontinuità interessante, importante dal punto di vista sia politico sia ecclesiastico, nel 1963 e poi nel 65 con il processo a Don Milani. Sì, possiamo dire che abbiamo negli anni 60 proprio una fase di cesura che, come giustamente ricordato, ha da un lato l'elaborazione del centro-sinistra, che soprattutto nella sua fase, diciamo, iniziale, quasi anzi ancor prima della costituzione del centro-sinistra organico, ha in effetti, conosce un rinnovamento piuttosto importante da un punto di vista legislativo, pensiamo alla scuola media unica come esempio più eclatante, e al tempo stesso il Concilio Vaticano II, che vede proprio un rovesciamento delle posizioni della Chiesa Cattolica nei confronti dell'obiezione di coscienza rispetto alla non violenza, che vengono assunte all'interno della dottrina cattolica. Quindi rispetto alla prevalenza del principio di presunzione, cioè quindi di adeguamento all'ordine che veniva dall'autorità statale, prende anche all'interno della riflessione della Chiesa corpo, maggior forza il ruolo della coscienza, fino a quel momento in qualche modo che era stata accantonata come se fosse una questione protestante. E dentro questa macro storia l'obiezione di coscienza ha una sua nuova vitalità, da un lato perché abbiamo un primo obiettore cattolico, Gozzini, e abbiamo una serie di eventi eclatanti, il processo a Balducci che aveva preso le difese di Gozzini, immaginiamoci un sacerdote che si ritrova alla sbarra e viene alla fine condannato dopo essere stato assolto in primo grado, viene condannato in appello con una sentenza scandalosa perché sembra quasi più che altro, come aveva commentato un giornalista di allora, sembra più che emessa non da un giudice ma da un teologo, quindi vi è una volontà della giurisdizione di intervenire e di dare un'interpretazione autentica del pensiero della Chiesa, quindi questa cosa crea indubbiamente scandalo. E infine il processo a Don Milani, anche per via della capacità di Don Milani di scrivere queste due lettere, prima ai cappellani e poi ai giudici, una capacità linguistica che dà all'obiezione di coscienza un lessico assolutamente efficace, porta all'obiezione di coscienza ad avere un risalto nazionale e anche sovranazionale. L'obiezione di coscienza italiana, ecco, ha una grande evidenza. Accanto a questo aspetto, diciamo, quindi l'importanza che ha l'allargamento dell'obiezione di coscienza al mondo cattolico, vi è però anche un nuovo attivismo da parte della tradizione non violenta. Capitini riorganizza il suo movimento, lo affida a Pietro Pinna, che era stato non il primo obiettore in Italia, ma il primo obiettore pubblico, cioè ad aver dato alla propria obiezione di coscienza un rilievo pubblico. Mm-hmm. Gli affida l'organizzazione e attraverso la costruzione dei gruppi di azione non violenta, che riprendono anche nella denominazione quella dei gruppi di azione patriottica, quindi con una trasformazione da appunto da essere gruppi armati ad essere gruppi non violenti, vi è un dare visibilità all'istanza dell'obiezione di coscienza attraverso delle azioni composte da piccoli gruppi nelle piazze. Quindi ecco che da un lato abbiamo il mondo cattolico, dall'altro il mondo non violento che si organizza e dà visibilità all'istanza. E il fatto è che l'obiezione di coscienza diventa un elemento discusso in Parlamento da alcuni deputati della sinistra democristiana come Pistelli o del Partito Socialista, che a sua volta aveva fatto si era staccato dal Fronte Popolare. Ecco, infatti, quindi la vediamo come gli anni 60, da quello che insomma ci stai raccontando, funzionano un po' come degli acceleratori, diciamo, che poi le trasformazioni avvenute nel tessuto sociale, nella sfera culturale, no, di questa grande fase della Golden Age, diciamo che influiscono anche in un'accelerazione dell'iter che poi porta al riconoscimento dell'obiezione di coscienza. In questa fase che hai raccontato tu, se ne aggiunge un'altra che riguarda sempre gli anni 60, cioè il 68, che è un anno fantastico, però in cui appare un nuovo obiettore, come l'hai chiamato tu. Sì, appare un nuovo obiettore. Potremmo dire che il 68 poi è l'onda lunga in realtà di un processo che comincia nel 66. È molto curioso, certo, che la Procura di Milano processi alcuni antimilitaristi radicali del Partito Radicale che avevano diffuso dei volantini contro il 4 novembre pochi giorni prima dei liceali del Parini, e dei liceali del Parini che avevano appunto parlato di si erano confrontati sulla sessualità sulla Zanzara. Ed è curioso perché nella requisitoria contro i liceali di Parini si mette insieme il sesso e l'obiezione di coscienza, appunto erano stati processati poco prima gli antimilitaristi radicali, come esempio di una società che sta perdendo i suoi principi e i suoi valori. Ecco che allora da qui comincia la nuova emersione di un altro obiettore, un obiettore che se in passato si rifaceva soprattutto a un'idea etica, morale della non violenza oppure religiosa della non violenza, ora vi affianca ma diventa prevalente l'identità politica. Il nuovo obiettore è un obiettore che si sente di partecipare attraverso la sua obiezione di coscienza alla lotta di classe e che propone l'istituzione di un servizio civile come una possibilità di azione che si rivolge agli ultimi. Quindi il nuovo obiettore è un obiettore che partecipa alla lotta politica e che partecipa al mondo del 68 e cambia il proprio lessico, lo riadatta proprio dandogli una forte connotazione di classe, in qualche modo riprendendo alcune istanze che erano proprie delle lettere di Don Milani, ma altre istanze che erano state conservate dal mondo anarchico, ne fa una piccola letteratura. Le sue difese assumono questo linguaggio fino a che non vengono stesi dei piccoli manifesti che sono le obiezioni di coscienza collettive. Quindi il nuovo obiettore si qualifica prima di tutto come antimilitarista, pur se di un antimilitarismo non violento. In secondo luogo il nuovo obiettore ha un riferimento che è quello di partecipare alla lotta di tutti gli esclusi contro l'autorità militare, quindi si fa anche portavoce della sofferenza delle carceri militari. Abbiamo da questo nuovo obiettore dei reportage che entrano dentro le carceri militari e ne denunciano la situazione, il rischio di malattie, il freddo, la condizione delle celle invivibili e al tempo stesso i privilegi di cui ancora godevano, per esempio, alcuni autori di stragi naziste all'interno delle medesime carceri militari come Kapper e Reder. Certo. Infine, importantissimo è il fatto che l'obiezione di coscienza dal 68 in poi si ritrova ad avere un interlocutore e una, diciamo, una sorta di cassa di risonanza molto più ampia rispetto al passato, che è rappresentata dal Partito Radicale di Pannella, che assume su di sé le istanze degli obiettori e le rende visibili con quella capacità a tratti contraddittoria ma indubbiamente innovativa del Partito Radicale di dare voce ai diritti civili e tra cui a quelli degli obiettori. E poi dopo l'approvazione della legge nel 72 si trova a metà tra la riforma del diritto di famiglia e il diritto al divorzio. Sì, e si trova in un contesto particolare, perché in realtà siamo alla fine della nuova fase riformista, sì, che è un po' l'ultimo colpo di coda del centro-sinistra. Siamo in un passaggio a un centrodestra, siamo nel governo Andreotti quando viene approvata la legge sull'obiezione di coscienza, e ci dice che tutto sommato ogni tanto queste formule centro-sinistra e centrodestra sul finire degli anni, diciamo all'inizio degli anni 70, mantengono una certa continuità, non c'è una vera rottura, e la legge che viene approvata mantiene tutte le contraddizioni per i non violenti che avevano lottato per oltre vent'anni per il riconoscimento di questa legge. Appare più una sconfitta, perché alcuni dicono viene riconosciuto il reato di obiezione di coscienza, non il diritto all'obiezione di coscienza, perché diciamo il servizio civile dura di più del servizio militare, è ancora sottoposto al Ministero della Difesa, e soprattutto diciamo l'obiettore viene sottoposto al giudizio di una commissione che deve riconoscere se è un autentico obiettore, e se non viene riconosciuto come autentico obiettore è costretto a fare il servizio militare oppure condannato nuovamente al carcere, e cosa che accadrà soprattutto all'inizio degli anni 70, quando ancora i motivi politici per fare obiezione di coscienza non vengono riconosciuti, solo quelli morali o religiosi. Quindi è una legge che presenta alcuni aspetti ancora di conservazione, reazionari, tuttavia al tempo stesso è una cesura, perché col tempo questi aspetti conservatori si sarebbero diluiti nella prassi, e quindi in qualche modo l'obiezione di coscienza sarebbe entrata a regime, e in effetti abbiamo, soprattutto sul finire degli anni 70 e negli anni 80, un aumento del numero di persone che fanno richieste, di ragazzi che fanno richiesta di fare il servizio civile. E quindi in qualche modo la legge entra a regime lentamente, però indubbiamente mantiene questo impianto conservativo, soprattutto all'inizio, che nasce dal timore che troppe persone facessero obiezione di coscienza, e quindi in qualche modo la leva obbligatoria perdesse il suo carattere universalistico che si voleva ancora mantenere. Grazie Marco, abbiamo imparato un sacco di cose. No, ma grazie a voi. Potremmo stare veramente molto tempo a chiacchierare qui con te, ci avrei ancora tantissime domande da farti, ma te le farò in separata sede. Intanto qua da Radio Città Fugico, da Vallun, ti salutiamo e diamo appuntamento anche ai nostri ascoltatori e ascoltatrici alla prossima settimana, e intanto ci lasciamo con una bella canzoncina. Grazie a voi, grazie di questa bella. Ciao Marco, grazie. Don't you understand what I'm trying to say? Can't you feel the fears I'm feeling today? If the button is pushed, there's no running away. There'll be no one to save with the world in a grave. Take a look around you, boy. It's bound to scare you, boy. And you tell me. Yeah, my blood's so mad, feels like coagulating. I'm sitting here just contemplating. I can't twist the truth, it knows no regulation. Handful of senators don't pass legislation, and marches alone can't bring integration. When human respect is disintegrating, this whole crazy world is just too frustrating. And you tell me over and over and over again, my friend, you don't believe we're on the eve of destruction.